Perfetto giorno di Alessio Maurizi. Autostrade dopo i viadotti, la procura indaga anche sulle gallerie, molte non sono a norma. Aspi rassicura, nel 90% dei casi è in corso la manutenzione, chiusa oggi per alcune ore la A6 Aquiliano. Non è stato un missile ad abbattere il volo all'aeroporto di Teheran per le autorità iraniane, che invitano i tecnici Boeing a partecipare alle indagini. Iran, la Camera americana vota lo stop ai poteri di guerra del presidente Trump, che replica è un voto ridicolo. Produzione industriale leggera risalita a novembre, più 0,1%, ma in un anno c'è stato un calo dello 0,6%. Harry e Meghan, ora il principe Carlo minaccia di tagliare i fondi milionari alla coppia reale. Buongiorno ad Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata. Nei prossimi 15 minuti sentirete la sintesi delle principali notizie, poi dalle 13:15 i nostri approfondimenti. Cominciamo con il dossier autostrade, perché dopo i viadotti, come avete sentito anche dai titoli e dalle aperture di alcuni giornali di oggi, la procura indaga anche su le gallerie. Ce ne sarebbero 200 fuori norma, in alcuni casi mancherebbero gli standard di sicurezza, pochi sarebbero i controlli. In 200 gallerie autostradali sussiste il pericolo di incidenti e crolli. Non sono impermeabilizzate né dotate di sistemi di sicurezza, corsie di emergenza e vie di fuga, come invece prevede la direttiva europea del 2004. Così recita la lettera inviata un paio di mesi fa dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, organo del Ministero delle Infrastrutture, ai Vigili del Fuoco e ai provveditorati alle opere pubbliche. Di questi 200 tunnel, 105 sorgono lungo tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Nella lista figura la galleria Bertè, lungo la A26, all'interno della quale il 30 dicembre scorso erano crollate alcune lastre. Da qui è partita l'attenzione della Procura di Genova, che ha aperto un nuovo fascicolo d'inchiesta dopo quelli sulle manutenzioni dei viadotti e sulle barriere fonoassorbenti non sicure. L'elenco delle gallerie a rischio è stato acquisito dalla Guardia di Finanza. Al momento per quest'ultimo filone non risultano indagati. Un'altra inchiesta riguarda le barriere di protezione della 14, lungo questa autostrada, l'Adriatica, il viadotto Cerrano è interdetto ai tir. Per questo anche oggi sulla statale il traffico è nel caos. In base alle ultime analisi sullo stato del ponte, lunedì potrebbe essere decisa la riapertura anche ai mezzi pesanti. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E proprio oggi c'è stato un nuovo crollo in una galleria dopo quello sulla A26 e la A10. Parte dell'intonaco di una volta della galleria Ricchini nel comune di Quigliano, in provincia di Savona, sulla A6, è crollato la scorsa notte. La galleria è rimasta chiusa in direzione del capoluogo piemontese ed è stata riaperta poi mattinata dopo che i vigili del fuoco e la Autostrada hanno rimosso i materiali caduti. Italia in forte ritardo sulla sicurezza delle gallerie. In una lettera inviata al Senato il 19 novembre, il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli spiega che il 69% delle gallerie stradali italiane di oltre 500 metri non rispetta gli standard fissati dalla direttiva europea del lontano 2004. Sono oltre 200, di cui 105 di Autostrade per l'Italia, che fa oggi sapere che i lavori sono in corso sul 90% dei tunnel. L'Italia ha la metà di tutte le gallerie stradali d'Europa e non ha rispettato il termine del 30 aprile 2019 per completare i lavori di adeguamento. Per questo il 10 ottobre scorso la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione a carico del nostro paese, insieme a Belgio, Bulgaria, Croazia e Spagna. I ritardi sulla sicurezza in galleria potrebbero costituire un altro elemento a favore della revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia, anche se i tunnel fuori norma sono anche dell'ANAS e la responsabilità dei ritardi è anche del vigilante Ministero delle Infrastrutture. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Apriamo ora la pagina internazionale. Non è stato un missile iraniano ad abbattere l'aereo precipitato mercoledì a Teheran, come sostengono invece le intelligence di diversi paesi occidentali. A dirlo oggi le autorità iraniane, che, e per dimostrarlo, invitano i tecnici della Boeing a partecipare alle indagini. L'aereo non è stato colpito da un missile, lo ha ribadito il capo dell'ente iraniano per l'aviazione civile, Ali Abezadeh, in una conferenza stampa sullo schianto del Boeing che mercoledì a Teheran ha provocato la morte di 176 persone, 63 delle quali canadesi. L'Iran ha anche invitato i tecnici della Boeing a partecipare alle indagini dopo aver negato alla compagnia la consegna delle scatole nere. Ieri il premier canadese Justin Trudeau aveva affermato che, secondo diverse fonti, l'aereo era stato abbattuto per errore da un missile iraniano, tesi condivisa dal premier britannico Boris Johnson e da Donald Trump. Teheran, invece, sostiene che c'era fuoco a bordo dell'aereo e che prima dello schianto, poco dopo il decollo, il pilota aveva deciso di invertire la rotta. Bisogna indagare sulle cause e non è corretto commentare prima di analizzare le scatole nere, ha detto il capo dell'aviazione civile iraniana, dando il benvenuto alla partecipazione nelle indagini di tutti i paesi che hanno perso loro connazionali nell'incidente. E mentre l'Ucraina fa sapere di aver ricevuto dati importanti sul disastro aereo dagli Stati Uniti, la Germania si unisce al coro di chi chiede sulle cause dello schianto un'indagine esaustiva. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Negli Stati Uniti la Camera a maggioranza democratica ha approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra di Donald Trump. Al voto hanno partecipato anche 3 deputati repubblicani in dissenso con il presidente americano. Il provvedimento impedisce qualsiasi azione contro l'Iran senza l'autorizzazione del Congresso. Si tratta comunque di un via libera simbolico. La misura infatti non è vincolante ed è difficile che possa superare l'esame del Senato a maggioranza repubblicana. La Casa Bianca intanto ha bollato come ridicolo il provvedimento. E ora in Libia niente tregua nel paese dopo che il generale Haftar ha rifiutato la proposta di mediazione turca e russa per uno stop ai combattimenti. L'Italia rischia di essere irrilevante nello scenario libico e soprattutto la destabilizzazione dell'area porterà nuovi flussi migratori verso il nostro paese. La diplomazia si muove in queste ore proprio per sciogliere questi dubbi. Ci saranno anche l'inviato speciale dell'ONU in Libia, Ghassan Salamé, e il segretario generale della NATO, Stoltenberg, alla riunione straordinaria dei ministri degli esteri europei convocata per oggi pomeriggio a Bruxelles. Si parlerà dell'evolversi della situazione in Libia, ma anche in Iraq. Intanto Roma faticosamente tenta di ristabilire un filo diretto con Tripoli dopo che il presidente del governo di accordo nazionale al-Sarraj 2 giorni fa se n'è andato dall'Italia senza vedere il premier Conte. La buona notizia è che ieri è stato a Roma per vedere una delegazione americana e tornerà lunedì in visita ufficiale. Avere un peso in Libia per l'Italia è essenziale. Oltre alle preoccupazioni legate all'approvvigionamento energetico, ci sono timori per i flussi migratori. Oggi la ONG tedesca Sea-Watch ha fatto sapere di aver salvato in mare 119 persone in 3 interventi nelle ultime 24 ore. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Con la cronaca torniamo in Italia. Nuova operazione giudiziaria nello stretto di Messina. I finanzieri di Palermo e Messina hanno sequestrato 3 navi traghetto della Caronte, ma anche del denaro, dei beni mobili e immobili e delle quote societarie. I reati ipotizzati dalla procura nell'ambito di una vasta inchiesta sono truffa e frode in pubbliche forniture. Truffa, falsità ideologica e frode nelle pubbliche forniture sono i reati ipotizzati a carico dei vertici della Caronte Tourist. 3 imbarcazioni sequestrate presenterebbero gravi carenze tecniche e strutturali. Il tenente colonnello della Guardia di Finanza, Daniele Tino. Non erano a norma da un punto di vista tecnico per il trasporto delle persone a mobilità ridotta, tra le quali rientrano anche non solo i disabili, ma anche donne incinte, persone con ipovedenza o con difficoltà a deambulare. Che tratta facevano? Allora, l'appalto è stato aggiudicato per il trasporto tra Trapani e le isole Egadi, ma attualmente queste 3 navi sono impiegate anche sulla tratta Ustica-Palermo e la Maddalena-Palau. Sequestrati anche denaro, beni mobili ed immobili e quote societarie per oltre 3,5 milioni. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo all'economia con i dati sulla produzione industriale. Secondo l'Istat, a novembre ha messo a segno un debole rialzo più 0,1% dopo 2 mesi consecutivi di calo. Per la produzione industriale prevale ancora il segno meno. A novembre un lieve recupero di appena lo 0,1% rispetto a ottobre non ha impedito che su base annua si registrasse un calo dello 0,6%, il 9° ribasso consecutivo in termini tendenziali. Nella media del periodo gennaio-novembre la flessione è dell'1,1% rispetto allo stesso periodo 2018. Si va quindi verso un bilancio 2019 negativo. Si pensi che l'ultimo anno che aveva visto la produzione industriale in calo era stato il 2014. Un segnale positivo però c'è: la produzione di autoveicoli, sempre secondo Istat, a novembre ha segnato un rialzo dell'1,8% su base annua. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La disputa all'interno della famiglia reale britannica sul futuro del principe Harry, bene, adesso potrebbe diventare anche una battaglia legale. La duchessa di Sussex, Meghan Markle, è già tornata in Canada dal figlio Archie, rimasto lì dalle vacanze di Natale, e ha lasciato a Londra invece il consorte Harry, cui spetterà ora il compito di negoziare un accordo condiviso con la regina Elisabetta II e con gli altri reali, dopo il loro annuncio di voler rinunciare allo status di membri senior di casa Windsor. Una decisione motivata dalla volontà di rendersi indipendenti e di vivere tra Regno Unito e Nord America. Harry e Meghan inoltre vogliono d'ora in poi seguire una strategia mediatica autonoma, destinata ad ignorare i corrispondenti reali accusati dallo stesso Harry di perseguitare la sua consorte, come è avvenuto in passato con sua madre Lady Diana. Furiosa per questa scelta di indipendenza, la 93enne regina Elisabetta II, la quale ha ordinato di avviare subito un dialogo per una soluzione concordata sul futuro di Harry e Meghan. Il Times scrive che in caso di mancata intesa l'erede al trono, il principe Carlo, minaccia di tagliare i fondi al figlio e alla nuora, un appannaggio di almeno 2 milioni di sterline all'anno. No, uno strappo questo all'interno della famiglia reale, ora tutto da ricucire. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Con l'organizzazione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 prende corpo l'ipotesi di collegare tutte le Dolomiti con piste e impianti, un sogno per l'industria turistica ma un incubo per gli ambientalisti. Se l'idea passerà, nessun altro comprensorio del pianeta potrà offrire un'esperienza analoga. Tutte le Dolomiti in seggiovia o sugli sci, senza trasferirsi da un posto all'altro con la macchina o il pullman. Per l'industria turistica e gli sciatori è un sogno, per gli ambientalisti un incubo. L'idea è venuta a Cortina per le Olimpiadi Invernali 2026 organizzate con Milano. Il progetto del nuovo carosello, che avrà un costo di circa 100 milioni, collegherà tre delle aree più spettacolari delle Alpi: il Sella Ronda, che unisce le valli ladine tra Trentino Alto Adige e Veneto, le zone di Cortina d'Ampezzo e il Giro della Grande Guerra, che sopra Alleghe collega le cime di Civetta, Pelmo e Tofana. Così si deturpa il paesaggio, dicono gli ambientalisti. Replica Valeria Ghezzi, presidente nazionale esercenti funivie. Seggiovia è il mezzo di trasporto più sostenibile che c'è, e che gli ambientalisti dovrebbero essere contenti perché togliamo il trasporto su gomma e andiamo a energia rinnovabile. Insomma, si decida e si faccia presto, magari prima che si sciolgano tutti i ghiacciai. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:12, effetto giorno, fa una pausa, torniamo tra poco dopo il break, dopo i viadotti, come sapete le gallerie, c'è un'inchiesta della procura su le gallerie a rischio in Italia, ne parleremo con l'esperto del Sole 24 Ore, Maurizio Caprino, e poi tutto quello che c'è da sapere sulla Brexit. Ieri il primo passaggio parlamentare del testo sulla Brexit, quindi cercheremo di capire cosa cambia per i cittadini, le imprese, insomma un po' per tutti. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Per commentare le notizie di giornata c'è anche la pagina Facebook di Effetto Giorno. Tra poco, dopo il break. Effetto Giorno. Autostrade dopo i viadotti, la procura indaga anche sulle gallerie, molte non sono a norma. Aspi rassicura, nel 90% dei casi è in corso la manutenzione. Non è stato un missile ad abbattere il volo all'aeroporto di Teheran, lo dicono le autorità iraniane, che invitano i tecnici Boeing a partecipare alle indagini. Intanto la Camera americana vota lo stop ai poteri di guerra del presidente americano Donald Trump sull'Iran. Trump replica: è un voto ridicolo. Produzione industriale debole risalita a novembre a più 0,1%, in un anno c'è stato un calo dello 0,6%. Brexit, primo via libera del Parlamento inglese al testo che fissa l'addio britannico all'Europa. Cosa cambia per cittadini e imprese? Proviamo a rispondere tra poco a Effetto Giorno. Di nuovo buongiorno ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Effetto Giorno. È con noi Maurizio Caprino, collega del Sole 24 Ore, benvenuto. Grazie, buongiorno. Allora, oggi la stampa e la Repubblica titolano, a proposito delle autostrade, Genova, indagine shock, a rischio 200 gallerie sulle autostrade italiane, la finanza parla di standard di sicurezza europei non rispettati e di pochi controlli. Maurizio, tu, questo era il titolo della stampa, per esempio, oggi abbiamo avuto notizia di distacco dell'intonaco lungo in una galleria nella A6, nel Savonese. La galleria poi è stata chiusa per qualche ora, riaperta al traffico regolarmente. Tu di questo avevi già scritto qualche giorno fa, tra l'altro, ma non tutti sono, diciamolo, anche problemi strutturali. Non bisogna immaginare che le gallerie della rete autostradale stiano venendo giù a pezzi, assolutamente. Non è immaginabile una cosa del genere. Però ci sono dei problemi, per esempio dei profili di irregolarità, di cui pure tu hai scritto. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del mancato adeguamento a una direttiva europea che ormai è del 2004, che aveva dato di tempo agli Stati membri per adeguarsi, aveva dato di tempo per 15 anni, il termine è scaduto il 30 aprile 2019, è stato lasciato scadere dall'Italia intesa come paese, quindi gestori pubblici, gestori privati, tutti quanti uniti in questo sforzo poi alla fine di chiedere una proroga che l'Unione Europea non ha accordato, e quindi andiamo allegramente verso una procedura di infrazione. Dal punto di vista poi pratico, la cosa si concreta nel fatto che noi tutti, quando percorriamo una galleria, soprattutto superiore a 500 metri, perché questa direttiva vale proprio per questo tipo di gallerie, siamo a rischio perché non ci sono sufficienti precauzioni e mezzi per combattere eventuali incendi. Dobbiamo ricordare che questa galleria è nata all'indomani del rogo del Monte Bianco, che costò la vita a 40 persone del 99, e nel 2004 fecero questa direttiva. Stando alle regole della concessione, insomma al sistema di leggi che c'è in Italia, a chi spetta di fare questi aggiornamenti? Cioè è direttamente ASPI che deve farlo, oppure non è così e ASPI contesta che non sia così? Deve provvedere chi gestisce la strada, quindi per le autostrade i gestori, quindi Autostrade per l'Italia per i suoi 3.000 km di rete, gli altri concessionari autostradali per i restanti 3.000 rotti, certo. E per le statali deve provvedere l'ANAS, per le provinciali le province, tutto qui. Il problema vero è che lo Stato ha difeso tutti incondizionatamente, sì. Quindi anche l'ANAS, che non aveva i soldi, essendo appunto poi finanziate in gran parte dallo Stato, oltre che dai canoni che versano gli stessi concessionari autostradali, le province a maggior ragione, che insomma hanno mi mancano i soldi per le esigenze primarie, addirittura dovevano essere abolite, invece le vediamo ancora qui che annaspano. Quindi la colpa sicuramente dei concessionari autostradali, quelli che incazzano i pedaggi tutti i giorni, è secondo me maggiore, proprio perché portano a casa fior di utili e diciamo si sono accodati invece a queste richieste. Addirittura nella primavera scorsa il Ministero delle Infrastrutture era andato a Bruxelles a impegnarsi per il 2022, a chiedere una proroga per il 2022, i concessionari privati volevano ancora un anno in più per adeguarsi, e adesso è abbastanza sintomatico che nella nota, nella replica di ASPI di stamattina si dica che comunque sono state fatte misure compensative. Ricordo, sì, stiamo in ritardo, ma abbiamo fatto le misure compensative. Questo significa che dobbiamo andare a 90 all'ora in galleria pagando lo stesso pedaggio di quando potevamo andare a 130. Ecco, mi sembra abbastanza evidente che questo non possa essere una soluzione, ma come è accaduto per i viadotti, dove oltre a dei ritardi diciamo nelle manutenzioni, dalle inchieste sembra che stiano emergendo delle vere e proprie omissioni di controlli, un fatto ancora più grave, anche per le gallerie quantomeno si tratta di forti ritardi nell'aggiornamento delle norme di sicurezza, non solo. Ma questa situazione, secondo te, quella delle gallerie che si aggiunge a quella dei viadotti, può diventare a questo punto un motivo per accelerare il famoso procedimento di revoca delle concessioni, su cui il governo, con voci alternate, ma insomma dice di star lavorando, poi non sappiamo ancora bene quale sarà la forma che sceglieranno di adottare nei confronti di ASPI? Ma sinceramente, prima che questa cosa scoppiasse in modo pubblico come in queste ore, io avevo scritto che poteva essere un motivo semmai per rallentare, perché in caso di revoca prenderebbe tutto in carico ANAS, che sta anche peggio di ASPI, e quindi per il governo sarebbe stato quantomeno imbarazzante. Adesso con il clamore pubblico non so francamente come ne usciranno, però fatto è che se un'autorità giudiziaria prende un'iniziativa, e la Procura di Avellino sta già da almeno un mese studiando le carte, diventano dolori, perché mentre sui viadotti che sono stati sequestrati si può sempre circolare a corsia unica, con disagi, code, tutto quello che vogliamo, ma si circola, invece le gallerie andrebbero chiuse e basta. Questo vuol dire chiudere le autostrade, proprio tagliare, cioè far rimanere a casa tutti quanti, insomma. Prima di salutarci, Maurizio Caprino, e anche per lasciarci con un'ipotesi, insomma, di lavoro, ti chiedo uno sforzo di fantasia. Tu che segui come cronista queste vicende da molto tempo e puoi fare anche dei confronti, ad esempio, con gli altri paesi, è chiaro che in tutta questa vicenda, tra omissioni, ritardi, mancanza di controlli anche da parte dello Stato, il sistema, concessioni, Stato e autorità che avrebbero dovuto controllare, eccetera eccetera, autorità dei trasporti che tra l'altro ha competenze ma fino a un certo punto sulle concessioni, questo sistema non ha funzionato. Come se ne esce, immaginandosi che tipo di sistema di gestione e di controlli? Allora, se ne esce sicuramente intanto dicendo tutta la verità, perché questo è un caso di bancarotta, una bancarotta infrastrutturale che è sempre stata tenuta nascosta, ma gli esperti lo sapevano, anch'io sinceramente ne ho sentito parlare tante di quelle volte, ne ho anche scritto in passato, negli anni, però diciamo che non c'erano le condizioni giuste. Adesso bisogna dire alla gente come stanno le cose e di conseguenza bisogna fare un piano di adeguamento che coinvolga sia il pubblico sia il privato, separando, attenzione, una volta per tutte i controlli dalla gestione della strada, perché qui stiamo assistendo a un balletto fra Stato e ASPI, tra Ministero e ASPI, dimenticando che molto spesso in passato sia lo Stato sia ASPI sono stati in realtà un'unica entità che aveva un unico interesse, e se il Ministero oggi ha contestato le irregolarità si deve a casi personali di controllori che non si sono girati dall'altra parte, ma il resto della struttura sicuramente ha delle colpe, quindi bisogna mettere ogni cosa al proprio posto, e non si fa in una notte questo, e neanche con i proclami forcaioli. Bisogna fare qualcosa di serio e presentarsi al Paese, e speriamo che ci convincano. E attenzione che i problemi strutturali ce ne sono anche, perché i problemi strutturali che tu dicevi prima riguardano nel caso dei mancati controlli. Qui ci sono gallerie che non sono impermeabilizzate, sono state lasciate andare al degrado, anche questo è noto al Ministero, le ispezioni ministeriali lo hanno detto, però nessuno più in alto ha fatto la voce grossa, e i concessionari autostradali sono andati avanti nella certezza dell'impunità. Adesso il destino ha voluto che succedessero tanti fatti fortuiti che hanno fatto scoppiare il bubone. Grazie Maurizio Caprino, grazie per essere stato con noi. Naturalmente non si chiude qua la vicenda. Continuiamo a parlare in qualche modo di strade, la sicurezza stradale in quei tratti particolari di strade che si trovano davanti alle scuole italiane. Di questo, della sicurezza dei bambini di fronte alle scuole italiane, si occupa il reportage di Alessandra Schepisi, in onda domenica alle 8:15 su Radio 24. Sentiamo un'anticipazione. In questa scuola sostano un sacco di macchine in divieto di fermata. Si creano dei imborghi pazzeschi. I genitori pretendono di arrivare all'ultimo minuto con la macchina, che è impossibile. Genitori che parcheggiano in doppia o terza fila, bambini che fanno lo slalom tra tubi di scappamento nel frastuono di clacson e motori, traffico, ingorghi, inquinamento e stress. È spesso questa la fotografia di molti istituti scolastici italiani alle 8 di mattina. Eppure le strade scolastiche dovrebbero essere luoghi protetti per garantire agli studenti di raggiungere il proprio istituto in autonomia e sicurezza. Le cosiddette school streets in molti paesi europei sono soggette già da tempo a specifiche regolamentazioni. In Italia invece non esiste un obbligo vero e proprio, tutto è demandato alla singola volontà del comune. La riforma del codice della strada ha introdotto il concetto di strade scolastiche sicure, ma approvata a luglio dalla Commissione Trasporti della Camera, è ancora bloccata in Parlamento. E intanto crescono le pressioni da parte di associazioni che si battono per la mobilità sostenibile. Linda Maggiori, promotrice del movimento Strade Sicure. Noi chiediamo che le strade adiacenti studenti alla scuola, quindi nel raggio di 500 metri possiamo dire, dovrebbero essere pedonalizzate. Se questo non è possibile, allora magari mettere una ZTL, oppure se proprio questo non è possibile, una zona 30 con però dei dispositivi atti a rallentare il traffico. Però ecco, la priorità delle azioni dovrebbe essere proprio quella della pedonalizzazione, in modo che i bambini possano uscire tranquillamente e anche magari correre davanti alla scuola. Insomma, ecco, sono tutte azioni che ovviamente una volta erano normali, no? Se pensiamo anche a 50 anni fa, quando si usciva da scuola, i bambini correvano e giocavano anche davanti alla scuola. Adesso invece tantissimi spazi sono stati sottratti al gioco dei bambini e alla visibilità. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. 13:26 minuti. Ieri la Camera dei Comuni britannica ha approvato la legge attuativa della Brexit targata Boris Johnson. Ebbene, a parte la data di uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea il 31 gennaio, per il resto ci sono ancora molte nebbie. Perché? Perché si dovrà trattare nei prossimi mesi sui singoli capitoli. Abbiamo cercato di far luce su quali sono le poche certezze. Rosanna Magnano lo ha chiesto ad Antonio Villafranca, responsabile Osservatorio Europa dell'ISPI. Non cambierà nulla per tutto quest'anno, perché nell'accordo di recesso della Gran Bretagna è previsto un periodo transitorio, per cui anche se a fine gennaio la Gran Bretagna uscirà appunto dall'Unione Europea, comunque tutto rimane, anche per quanto riguarda i diritti dei cittadini, invariato fino a fine anno. Johnson ha già dichiarato che non vuole prorogare il termine, e però poi bisognerà vedere, perché la negoziazione sull'intero futuro dei rapporti tra Regno Unito e Unione Europea è molto complessa. Normalmente per finalizzare un accordo anche soltanto sugli aspetti commerciali ci vogliono anche diversi anni. Ci sono alcuni punti fermi? Quello che noi sappiamo è che si andrà verso un accordo di libero scambio con la Gran Bretagna, il che vuol dire che la Gran Bretagna potrà fare accordi commerciali con paesi terzi, paesi extra UE, ma che tra i paesi dell'Unione Europea dovrebbe esserci un dazio pari allo zero, comunque insomma estremamente basso. Riguardo in particolar modo al movimento dei lavoratori, il governo britannico ad esempio ha già annunciato che vorrebbe istituire una sorta di visto per i cittadini europei, non un visto vero e proprio, ma molto simile a quello che già i cittadini europei fanno quando si recano negli Stati Uniti, il cosiddetto ESTA, che è un visto elettronico essenzialmente. Di fronte alla prospettiva di trattative così complesse, diversi investitori tirano i remi in barca. Cosa sta succedendo? Quello che abbiamo visto negli ultimi anni è già uno spostamento, ad esempio, di molte divisioni, di molte, in alcuni casi addirittura di headquarters, di alcune aziende, soprattutto nel campo della finanza nell'Europa continentale. Molti si sono spostati, ad esempio, a Berlino. E questo sarà un processo che continuerà. Molti non hanno del tutto chiuso comunque le loro divisioni in Gran Bretagna, ma hanno un atteggiamento attendista. Sul nodo dell'Irlanda è stata trovata una soluzione che potrebbe facilitare il contagio del divorzio? Il divorzio potrà essere sicuramente contagioso, lo sarà quasi sicuramente nei confronti della Scozia. Già gli scozzesi hanno chiarito che vorranno chiedere un nuovo referendum. Per quanto riguarda poi l'Irlanda del Nord, la situazione è molto complicata. Per evitare un confine fisico tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, perché questo appunto è previsto negli accordi del Venerdì Santo, allora ci saranno dei controlli nel mare d'Irlanda, il mare che separa l'Irlanda del Nord dal resto della Gran Bretagna. Cioè, di fatti, l'Irlanda del Nord avrà dei dazi, applicherà dei dazi soprattutto alle merci in transito e delle regolamentazioni molto simili a quelle dell'Unione Europea. Il resto del Regno Unito invece potrà avere dazi e regolamentazioni diverse. Quindi Johnson, in pratica, per avere maggiori le mani libere appunto nel fare accordi commerciali con l'estero, ha sacrificato l'Irlanda del Nord, non a caso appunto gli unionisti nordirlandesi, che erano peraltro alleati dei conservatori col governo May, hanno votato contro l'accordo appunto di Johnson. Dunque, tante ancora le cose da definire a livello di Brexit, tra cui anche, ieri se ne è parlato molto, la questione del progetto di studio europeo Erasmus. Non c'è stato ieri una chiusura, c'è stato un non voto a un emendamento che chiedeva di far rientrare l'Erasmus tra le cose da salvare, ma questo rientrerà tra le cose da trattare fra l'Europa e la Gran Bretagna. E poi il governo inglese ha fatto sapere che è intenzionato ad andare avanti con l'Erasmus. 13:30, facciamo una pausa, torniamo tra poco, visto che è venerdì, ci lasciamo con una buona notizia, una piccola storia: un ex libraio milanese che si è inventato un modo per salvare o rilanciare il business delle edicole. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. Che programmi avete per quest'anno? Io vado a ritrovare me stesso in Asia, India, Giappone, Corea. Io sogno un safari in Sudafrica. Per me un weekend in Europa. Big Ben, Tour Eiffel, Plaza Mayor. Con Alitalia Smile Days viaggiare è contagioso, come sorridere. Solo fino al 22 gennaio tutte le nostre destinazioni in offerta a prezzi davvero imperdibili. Ad esempio India o Sudafrica da 419 euro andata e ritorno tutto incluso, anche il bagaglio. Info e condizioni su alitalia.com. Doc 12 Melos, Doc Urban Melos, Doc Eco 3. Tre nuovi monopattini elettrici, tre soluzioni green per vivere la tua città su nilox.com. Dal 17 al 22 gennaio, appuntamento con Vicenza Oro, vetrina delle eccellenze italiane e internazionali del comparto orafo e gioielliero, organizzata da Italian Exhibition Group, e con VO Vintage, in mostra per la prima volta il vintage di altissima gamma di orologi e gioielli, con la possibilità per collezionisti e appassionati di vendere o acquistare pezzi unici e rari. Radio 24 sarà presente a Vicenza Oro con dirette e appuntamenti speciali. Tutte le info su radio24.it. Effetto giorno. Autostrade dopo i viadotti, la procura indaga anche sulle gallerie, molte non sono a norma. Aspi rassicura, nel 90% dei casi è in corso la manutenzione. Chiusa oggi una galleria a Quiliano in Liguria per il crollo dell'intonaco. Non è stato un missile ad abbattere il volo all'aeroporto di Teheran, lo dicono le autorità iraniane che invitano i tecnici Boeing a partecipare alle indagini. Produzione industriale debole risalita a novembre, più 0,1%, in un anno però c'è stato un calo dello 0,6%. Milano, edicole mobili al posto di quelle chiuse, l'idea di un ex libraio che ha dato vita al progetto Edicole a tre ruote, effetto giorno, dice i conti tornano. Harry e Meghan, ora il principe Carlo, minaccia di tagliare i fondi milionari alla coppia reale. 13:35, ben ritrovati, Alessio Maurizi, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno. Vediamo i vostri messaggi di oggi al 349-238-6666 o anche su Facebook, il momento così diciamo di commentare, il momento social di effetto giorno. Ci sono naturalmente commenti sulla questione delle autostrade. C'è un ascoltatore che chiede di intervenire sulla A18 Catania-Messina, dovrebbe essere addirittura messa sotto sequestro, non so per quale motivo, ma accogliamo questo punto di vista. Poi un altro, Max, che dice: autostrade, le tanto decantate privatizzazioni che dovevano essere la panacea di tutte le inefficienze della gestione pubblica, meglio allora lo Stato, almeno a guadagnarci è una platea più ampia di gente comune, dice Max. Meglio lo Stato, Max, non lo so, ognuno ha i suoi punti di vista, può darsi, però non a prescindere, come avrebbe detto Totò, perché per esempio prendiamo un caso come l'Ilva, hanno fatto male i privati, i Riva, ma avevano fatto male anche lo Stato prima, per esempio, per quanto riguarda la gestione dei rischi ambientali dell'Ilva. Quindi non potremmo avere qualcuno di bravo, a prescindere appunto che sia pubblico o privato. Questa è la mia personale scelta. Poi c'è un altro ascoltatore che ci un chiarimento, perché dice: ma non avete visto il video sull'Iran che fa vedere il razzo lanciato contro l'aereo? Allora, quel video l'abbiamo visto, certo, la redazione l'abbiamo visto, ma è un video che si vede un bagliore e poi si sente un rumore, non si sa nella notte, non si capisce bene che cosa corrisponda a questo video, ci vorrebbe un perito probabilmente per capirlo. Cioè, stiamo a quello che si sa fino a questo punto, che non sia stato un missile lo dicono le autorità iraniane, questo abbiamo detto nei titoli, non lo sosteniamo noi. È il momento del punto del vice direttore del Sole 24 Ore. Il punto di Alberto Orioli. Ora scopriamo che oltre ai cavalcavia sotto sequestro ci sono anche 200 gallerie fuori norma. 105 sono su tratte di autostrade per l'Italia e 95 su tracciati in concessione ad altre società. Lo ha rilevato la Guardia di Finanza nell'ambito dell'indagine sulle responsabilità per il crollo del Ponte Morandi di Genova e ora l'Italia rischia anche sanzioni europee. È chiaro che queste notizie, compreso l'ennesimo distacco di parte del soffitto di una galleria ligure, per fortuna senza conseguenze, diventano davvero incendiarie nella discussione politica su quale debba essere la posizione del governo da tenere verso autostrade. I 5 Stelle chiedono la revoca delle concessioni in toto, senza se e senza ma, anche se questo significa default, sicuro, per un'impresa con 7.000 addetti che già deve fare i conti con le conseguenze dell'abbassamento del suo rating che impone il rimborso dei prestiti con CDP e BEI per 2,1 miliardi e il rischio di rientro immediato dai fidi delle banche. È in atto un confronto serrato nel governo e tra governo e società. C'è ancora uno spazio per verificare come far applicare ad autostrade un forte abbassamento strutturale delle tariffe, vincolando l'azienda a un piano di investimenti nella manutenzione molto più rilevante che nel passato. Da autostrade finora è arrivata un'offerta che vale 700 milioni. Il governo l'ha considerata giustamente poco più che una presa in giro. È con noi Andrea Carbini, amministratore di Edicola Quisco, già fondatore delle librerie Ubic, con cui buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Con cui vogliamo congedarci da questo punto di vista con gli ascoltatori con una buona notizia in questo venerdì, come da tradizione, diciamo così, almeno la vogliamo prendere così, Carbini, come una buona notizia, perché lei, partendo da un dato che è quello del crollo verticale del business delle edicole, si è fatto venire da uomo del settore un'idea. Ce la racconta velocemente? Certo. Sì, noi abbiamo pensato di costruire un'edicola mobile perché, sì. Perché le edicole stavano chiudendo qua alla velocità della luce e quindi avevamo capito che le edicole che mano a mano che chiudevano lasciavano scoperte intere zone delle città. Sì. E questo creava un forte disagio soprattutto alla popolazione anziana. Sì, ecco, perché in effetti uno potrebbe anche dire, no, si fa ricorso ai servizi digitali, quindi oggi la gente ha le notizie sul telefonino, però prima di tutto attenzione perché non tutti utilizzano il telefonino in quel modo lì, soprattutto magari le persone più anziane. Poi c'è anche chi ha a cuore in particolare questo business, questa vecchia tradizione delle edicole come presidio del quartiere. Io personalmente quando è chiusa l'edicola nel mio quartiere, quando è andato via Giuseppe, ci sono rimasto molto male. No, c'è un tema che secondo me invece va considerato: non tutto passa per il digitale, soprattutto sì. Per certe fasce di età. Quindi, per esempio, ci sono elementi informativi, tipo quelli televisivi, quella parte dei prodotti dei bambini, gli approfondimenti culturali di alcune testate, alcuni articoli di fondo che non passano attraverso il digitale. E quindi noi abbiamo. Sì, no, le chiedo come nasce questa idea e come sta andando, perché è partita da poco. Nasce da un aspetto legislativo. L'Italia, la Costituzione italiana permette, di diffondere i quotidiani e tutte le riviste periodiche in maniera senza alcuna autorizzazione. Quindi permette, come era l'origine dell'edicola, di essere itineranti. L'origine, l'edicola nasce in questa maniera. Da questo punto di vista noi abbiamo sfruttato questa norma e da qui siamo partiti costruendo un'edicola che ha 600 testate mediamente, con tutto quello che c'è, che propongono, sì. Sia le chiavi dell'informazione televisiva, dei ragazzi, di politica. Vabbè, quello poi tutto quello che si trova in un'edicola, per quanto in versione mignola. Come fate? Funziona la linea? La linea funziona in questo modo: noi abbiamo preso un'edicola che stava chiudendo, vecchia, l'abbiamo costruita come hub e come magazzino e da lì facciamo partire delle stappe fisse come fosse una corriera, una metropolitana. Cioè praticamente, alle 8:30 di mattina siete in via a Riberto, alle 9 siete... Cosa facciamo? Studiamo i percorsi, li abbiamo sperimentati già in queste settimane, per esempio ne abbiamo tentati alcuni che non hanno funzionato, ci stiamo spostando, ma il dato più interessante che io le posso dare per certo è che il radicamento nei quartieri è quello che paga di più. Se noi per esempio dovessimo pensare al dato di una forte via di passaggio e il dato di un quartiere, il quartiere è molto più importante. Perché? Perché la comunità che si è rimasta sprovvista di questo servizio vede di buon occhio che ritorni almeno per alcune ore questo tipo di servizio della carta stampata. Ecco, lei che ha fatto varie iniziative nel campo dei libri in passato, e quindi diciamo che ha anche un'esperienza quasi, direi quasi manageriale, pensa di andare avanti con questo esperimento? Noi vogliamo andare avanti perché secondo noi le linee di a Milano si possono aprire diverse linee. Ci sono alcune zone della periferia di Milano che sono totalmente scoperte. Rozzano, per fare un esempio, quindi lancio anche qua. Ci sono 18-20 mila abitanti, se non di più, con due dico. Potrebbe diventare un posto di lavoro per qualcuno? Può diventare un posto di lavoro, perché vede, se lei toglie tutti i costi di un'edicola, perché non paga solo pubblico, non paga luce, non paga... Deve pagare tasse, quasi solo la benzina, via. Deve pagare la benzina, un investimento. Lei pensi che fare rifare un chiosco costa tra i 40 e i 50, addirittura 60 mila euro. Con un'ape che è duttile, mobile, veloce, estremamente capace e flessibile, dove può arrivare ovunque, con 25-26 mila euro si può tranquillamente aprire un'attività e avviare un prodotto, tra l'altro a forte rotazione in deposito. Complimenti. Questo è. Quindi è un'ipotesi di lavoro, io direi, per qualcuno che ha una giovane, ai giovani, ma anche che qualcuno ad una certa età. Beh, insomma, lei si è fatto venire l'idea, l'ha fatta partire, adesso se qualcuno diciamo è interessato, perché no, può contattarvi, capire come avete fatto, provare a farlo anche magari nella sua città. Andrea Carbini, grazie per essere stato con noi. L'edicola a tre ruote, non so se è la prima iniziativa di questo genere, in passato mi è capitato di trovare librerie, diciamo, che vendevano libri, ma non giornali, diciamo itineranti, mobili o su ape o cose del genere. Carlo Genta, il momento dello sport. Ciao. Senti, qual è, dammi un tuo ricordo, sì, di tutto il calcio minuto per minuto. Ricordo tanti ricordi, perché quando sei in macchina che stai viaggiando e il pomeriggio ti colleghi con questi cronisti strepitosi che... Tu sai che compie 60 anni, no? Sì, e sì. Quindi lo chiedo anche agli ascoltatori, un loro ricordo, lo daremo anche il nostro, 349-238-6666. Comunque clamoroso al Cibali, cos'è? A tutto il calcio minuto per minuto. Niccolò Carosio, poi c'è Ciotti Ameri, sì, insomma una galleria di personaggi che hanno fatto e che fanno tuttora la nostra storia. Beh, di questo parleremo, ma poi ovviamente allarghiamo il discorso alla vigilia di un sabato di campionato che è intensissimo, perché c'è il Milan a Cagliari, perché c'è Lazio-Napoli, perché c'è Inter-Atalanta, quindi tre partitone tutte al sabato e poi Roma-Juventus domenica sera. Questo sarà l'argomento di discussione con le voci degli allenatori che stanno parlando in conferenza stampa e insomma gli ascoltatori che aspettiamo sempre. Alessio, 349-238-6666, e tutte le volte che ci sentiamo poi immediatamente arrivano diversi WhatsApp audio. Appunto. Spero che poi li mandiate in onda, sì. Tutti quelli che possiamo. Senza però filtro. Li conserviamo anche e magari li mandiamo in leggera differita, ferita, come il tempo di una partita di Serie A che vedevamo una volta in bianco e nero. Grazie Carlo, ci risentiamo più tardi, 13.45, noi tra poco siamo con i giornali internazionali. Giulia Crivelli.